È solo il tempo che dimostra che sei solo in questa corsa, quanto dalla realtà il sogno si discosta, e che ti mostra mare quanto costa, quanto è alta questa posta, in una mare che ti scalda il cuore, ti spacca le ossa, non c'è forza per capire perché per una sorella un giorno eri agosto e un altro giorno sei una mosca. Il tempo passa, il sole passa, sotto la mia palma lascia la sua ombra incisa sulla pancia, per un po', almeno per un po', finché nel mio deserto nuovamente solo ancora tornerò e vivrò senza rancore, pensando al suo nome che so mai non dimenticherò, solo non so perché, solo non so perché. Dovevi farlo te. E già, io sono solo qua e mi domando perché, perché hai dovuto mostrarmi proprio te. Certe leggi come quella che più ami più soffri, più affondi più sconti, e una cosa finisce soprattutto se ci conti. Questo è un old dogma, come quello che chi tradisce sempre sa che quando il gioco finirà farà parte degli stronzi, e la strada che ci ha unito ci separerà, come la lingua di un serpente si biforcherà, perché così il niente vuole da, tu chiamalo sorte, per me è un labirinto senza porte, la morte che di delusioni ne porta con sé molte. Quando il tempo passerà, se n'è andato.